Vamos para. E benvenuti alla sesta puntata di Cialtroni nello spazio, trasmissione di informatica, l'ultimo informatico di informazione trasmissione di cultura informatica e digitale. Oggi abbiamo anche un ospite in studio con noi. Ciao Andrea. Antani, perfetto. Alessandro, come sempre al mixer, ci fai un po' il punto della situazione. La settimana scorsa, ricordiamo, è saltata la trasmissione perché c'era, insomma, lo sciopero generale in Val di Susa e quindi non siamo andati in onda. Quindi sarà una puntata un po' più di riassunto questa, ma ci saranno degli argomenti un po' speciali, un po' una puntata con meno news e più approfondimenti. In particolare, di che cosa andremo a parlare, Alessandro? Allora, andiamo a integrare un attimino le notizie date settimana scorsa riguardo... Due settimane fa, vabbè, nella scorsa puntata riguardo al DRM Sony. Ci sono state una serie di novità che hanno incrementato, insomma, il caos riguardo a questa forma di protezione della Sony. Novità delle ultime due settimane, e poi risponderemo a un nostro ascoltatore che ci ha chiesto alcuni consigli riguardo a alcuni software che potevano servire a lui e a un gruppo di persone interessate all'open source. Ecco, Alessandro si è già dimenticato il motivo per cui Andrea è qui oggi, ovvero presentare il Linux Day che si terrà sabato prossimo, ma sapremo tutti i dettagli tra no, poco. Ma si sa che lui non mi sta simpatico per niente. Vabbè, allora iniziamo con le novità che riguardano il rootkit della Sony. Marco si è preparato un grande sfacelo di materiale tutto in inglese, quindi tutto quello che dirà non sarà da prendere troppo sul serio perché non è capace a tradurlo, però insomma diciamo che i contesti ci sono e cercheremo di correggerlo quando farà errori. Allora, ciao a tutti. In questa storia del rootkit della Sony, che Alessandro, ricordiamo che cos'è? È un sistema che la Sony utilizza per proteggere alcuni suoi titoli musicali. Sony BNG, ovviamente, che è il reparto della Sony che si occupa della musica. È una... Sostanzialmente, quindi voi inserite un CD della Sony all'interno del vostro computer e subito dopo vi trovate il computer più o meno infetto. Esatto, questo modo di protezione assolutamente esageratamente invasivo implementato dalla Sony ha creato un scompiglio nel mondo informatico, in quanto va a creare un sistema di nascosto all'interno del computer che impedisce una serie determinata di azioni, ma in realtà permette tutta un'altra serie di problemi a molto più ampio raggio. Ad esempio, sono stati già creati dei virus che utilizzano questa protezione di sicurezza, questo rootkit installato dalla Sony nei computer nei cui vengono inseriti questi CD musicali, e soltanto se utilizzate Windows. E, insomma, sono state utilizzate queste metodologie per inserirci già dei virus, e in particolare questo sistema di protezione non può essere rimosso in maniera efficace, in quanto si rischia addirittura di rovinare completamente l'installazione, quindi di dover reinstallare completamente Windows se la rimozione non viene eseguita in maniera corretta. Le notizie però non si fermano qui, in quanto questo rootkit è saltato fuori questa settimana, che ad esempio è in violazione della libreria GPL, di alcune librerie del codice rilasciato con licenza GPL. LGPL e anche GPL, ti ricorrego, in quanto questa è la novità dell'ultima settimana. Utilizzato una parte del codice della libreria Lame, che permette di encodare il MP3, sia viene addirittura utilizzata una parte delle librerie create da John Johansson, il DVD John, colui che aveva trovato il modo di decrittare i DVD un po' di anni fa. Questa è una delle sue librerie che permetteva di decrittare il formato di criptazione del formato iTunes della Apple, il modo con cui vengono, diciamo, venduti gli MP3 dal sito della Apple. Quindi all'interno di questo rootkit c'era sia del codice LGPL, che quindi avrebbe dovuto perlomeno citare il sorgente, la libreria da cui questo codice era stato preso, e sia del codice GPL, che quindi avrebbe dovuto e quindi questo Sony Rootkit dovrebbe essere stato distribuito anche sotto forma di sorgente, quindi una violazione anche della, appunto, della licenza GPL. Il presidente della RIA, ovvero sia l'associazione musicale dei musici, la SIA americana, la SIAE americana. Appunto dichiara che non c'è assolutamente nulla di strano in questa tecnologia che è stata utilizzata per proteggere le proprietà intellettuali dei vari autori, appunto, di queste CD. E l'unico problema era che in questa tecnologia aveva una piccola vulnerabilità di sicurezza di quali loro non erano a conoscenza. E così il presidente della RIA fa abbastanza facile, ma in realtà tutto il mondo, cioè, diciamo, si sta muovendo contro di loro. Come avevamo citato 2 settimane fa, c'è un'azione legale che è nata in Italia. Anche il Texas e un altro stato americano di cui non ricordo hanno iniziato un'azione legale, appunto, contro la Sony per in particolare questo caso il Texas ha chiesto un risarcimento di 100.000 dollari per la violazione della legge contro lo spyware, della legge sulla protezione contro gli spyware dei computer, che era stata approvata di recente quest'anno. Abbiamo anche altre notizie, in particolare è stata diffusa la lista completa di tutti i 50 e passa CD che sono infettati da questo virus. E la cosa che ci ha lasciato decisamente perplessi è che alcuni di questi sono in distribuzione dalla metà del 2004. Quindi da circa dalla metà del 2004 questo virus si è diffuso attraverso questi CD infetti in una stima approssimativa di 500.000 di computer. Quindi è numericamente un'infezione anche abbastanza seria, paragonabile a altre infezioni di virus via internet come il virus Nimda o il Blaster o lo Slammer o altri di questi virus. Beh, diciamo che non è la prima volta che la BNG tenta di escogitare sistemi di protezione che vengono poi messi sotto accusa. Uno dei primi che era stato utilizzato era stato poi bandito in Germania, e tanto che non era stato poi esportato. Comunque l'unica consolazione è che la Sony e la BNG comunque utilizzano queste protezioni spesso su titoli minori, anche sfogliando la lista comunque dei CD disponibili non ci sono grandi titoli nella lista. Ma Zamp stava guardando dunque è presente sul sito di Attivissimo una serie di comandi, comunque una procedura per rilevare se si ha questo rootkit, questo programma che permette la protezione dei CD installato nel proprio sistema. Non è ancora arrivato la soluzione. No, sì, stavo cercando un metodo semplice per poter rilevare se il vostro sistema è infetto. In realtà il modo in cui altera il sistema Sony sostanzialmente nasconde tutti i file che iniziano con il simbolo del dollaro, SYS simbolo del dollaro, e ogni file che inizia così diventa invisibile a Windows e anche agli antivirus, per come appunto sono arrivati finora almeno gli antivirus. Quindi, per accorgervi se il vostro computer è sostanzialmente infetto da questo virus, quello che dovete fare è creare proprio un file che inizi appunto con dollaro SYS dollaro, potete farlo con blocco note scegliendo salva con nome o qualcosa del genere, creando anche un file che contenga poche lettere. Se il file nel punto in cui voi lo salvate non lo trovate più, vuol dire che il vostro computer è infetto. Insomma, prendete tutte le precauzioni del caso, vi consigliamo, insomma, è un po' difficile spiegare per radio come si fa a rimuovere, ma non è difficile invece guardando su siti come appunto quello che ci stava citando Alessandro, attivissimo.blogspot.com, non è difficile poi risalire alle procedure più corrette per rimuovere questo virus. Allora, adesso passiamo a un nuovo argomento, ospite speciale per noi questa sera, Andrea del Lug di Brescia, già avuto ospite l'anno scorso nelle passate edizioni di Cialtroni nello spazio, nonché ospite, lo possiamo rivelare, dello spot di Rassegna Stramba. Quindi riconoscerete la sua voce sicuramente. Andrea, grazie di essere con noi. Con noi sei qua per presentare la edizione del Linux Day Bresciano. Come si svolgerà quest'anno? Quando? Quali sono le cose in programma? Che cos'è innanzitutto un Linux Day? Salute a tutti. Vi ringraziamo ancora per l'ospitalità che ci concedete per l'ennesima volta. Oddio, più vicino nel microfono. Oddio, cosa sia un Linux Day? È presto detto, sostanzialmente. Diciamo che è una piacevole tradizione arrivata all'11ª edizione per noi di Brescia, ufficialmente a livello nazionale sotto l'egida di ILS, cioè dell'Italia Linux Society. Il Linux Day è un evento nazionale dove si propone di dare diffusione e maggior conoscenza, in particolare ai neofiti, di tutto quello che è il software libero e in particolare il mondo dell'open source, quindi nelle sue varie forme, tra cui spicca quella di Linux e le sue distribuzioni corollario e così via. Il 26 di novembre, sabato appunto, è la data prefissa per quest'anno. È differente dalle altre occasioni per noi del Lud di Brescia perché per un effetto, se vogliamo, piacevole per certi versi, per altri meno simpatico, accade che i componenti storici, i veterani del Lug, stiano invecchiando, del Lug di Brescia, e quindi chi per famiglia, chi per impegni ha dovuto ridurre il proprio tempo dedicato a quello che riguardava tutta la sfera dell'attività all'interno del gruppo di utenti Linux bresciano, e quindi si è optato per una scelta che da un lato ci fa anzi molto piacere perché è indice di dell'avvento di nuove forze, di nuovi giovani con tanta buona volontà sul territorio nostro, e quindi quest'anno, piuttosto che organizzare una manifestazione tutta nostra, ci siamo presi l'impegno di partecipare, divisi per relatori eccetera, ai vari eventi che comporranno l'evento, la giornata di sabato sul territorio bresciano, quindi una maggiore capillarità sui luoghi. Non ci sarà più bisogno di macinare chilometri per andare a vedere eventi del genere, perché ce ne saranno anche di più vicini. Ora vi cito brevemente i programmi che troverete appunto sabato. Parto dal neonato Lugob. Citiamo anche l'indirizzo che è del Lugob, Lug dell'Ovest Bresciano, che è www.lugob.org. Sono un gruppo di ragazzi appunto di Rovato e dintorni. Hanno organizzato una buona idea, nel senso che lo stesso incontro avverrà un po' come nelle piste da circo, cioè avremo due piste parallele, una per la parte degli utenti neofiti e una per la parte invece degli utenti più esperti e più scafati. Quando si svolge il tutto? Si svolge dalle 14 alle 19 di sabato 26 novembre, presso la scuola media di Rovato. La sessione divulgativa parte appunto alle 14, mentre quella più tecnica parte alle 15. Sul sito trovate tutto, mi permetto di segnalare alcuni appuntamenti che possono interessare di più. Per la parte dei neofiti alle 15 c'è un incontro tenuto da Antonello Facchetti relativamente all'utilizzo di Linux e del software open source all'interno delle scuole, e a cui fa seguito subito dopo alle 15.45 degli esempi pratici di installazione e di utilizzo dell'ambiente grafico. Poi, per quello che riguarda invece il Garda Lug, altra formazione che oramai esiste da parecchio tempo, in questo caso il sito è www.gardalug.linux.it. Nella sala consigliare del comune di Puegnago del Garda, appunto, dalle 14.30 alle 18.30 si svolgerà la manifestazione, anche qui da segnalare in particolare alcuni eventi. All'inizio l'intervento su Edunopics, che si tratta di una suite di software per le scuole, tutto software libero, fatto con insegnanti, per gli insegnanti e gli studenti, fatto appunto e prodotta in casa nostra, nel senso da uno dei professori qui di Brescia dell'Università Cattolica. Questo per quanto riguarda il Linux Day del Lugob. Poi infine invece dal neonato Linux User Group della Facoltà di Ingegneria che ha come indirizzo http://lug.yoda2000.net. Questo incontro slitterà da sabato, slitterà mercoledì 30 novembre dalle 14 alle 18, si svolge in aula consigliare e sarà anche questo un incontro introduttivo, quindi con un programma incentrato sull'utilizzo per utenti alle prime armi nella prima fase, in un secondo tempo invece per utenti più evoluti. Ora, cosa vuole... Permetto anche di citare, visto che probabilmente questa trasmissione verrà ascoltata anche a Milano, che sul sito del nazionale del Linux Day, www.linux.it/linuxday, c'è l'elenco completo delle varie manifestazioni che si terranno in giro per l'Italia, per cui relativamente a Milano avremo un Linux Day a Cinisello Balsamo, uno a Milano. Sono più di uno a Milano. Ah, perfetto, stavo guardando proprio adesso il programma e quindi vi rimandiamo al sito appunto nazionale www.linux.it/linuxday per avere più dettagli su questi Linux Day. Beh, perfetto, allora ascoltiamo qualche istante di musica e poi passiamo a rispondere alle domande di un ascoltatore che ci ha scritto ormai un paio di settimane fa, ma non abbiamo mai avuto tempo di rispondere appunto perché la settimana scorsa è saltata la trasmissione. Sei lontana quando vuoi, dietro quel velo negli occhi. Forse sai che sono qui, o forse nemmeno ti accorgi. Da quanto tempo sanguini, da quanto non hai più pace. C'ero anch'io quel venerdì, il mio rimorso tace. So chi sei. So chi sei, più di ogni altro, cosa aspetti a crederci? Certo è andata come sai, non ci si doveva far male. Adesso restiamo solo noi e adesso ci tocca scappare. Fuori piove, pensi a lui, io penso dobbiamo andare. Se solo provassi a stringermi con rabbia nel tempo orale. So chi sei. continuiamo quindi con... E veniamo adesso all'ultima parte della trasmissione. È arrivata una lettera da un ascoltatore, Roberto, che ci offre ampi spunti per continuare a parlare di free software. Vabbè, saltando le premesse in cui dice che siamo la trasmissione più bella del mondo. No, non è vero che dice questo. Comunque, saltando le premesse, ci racconta del caso del suo gruppo, un gruppo di genitori che avrebbe intenzione di organizzare un corso per apprendere programmi relativi alla fotografia digitale, programmi per l'archiviazione digitale, un programma che trasformi le pagine inserite nello scanner non in immagini ma in dati che possono elaborarsi con un programma di scrittura, e dulcis in fundo un programma per scrivere con la voce e uno per le traduzioni e basta. E quindi ciò che vi chiedo è un consiglio sui prodotti migliori ma anche facili, visto che non siamo delle aquile, siamo tutti operai e casalinghe, possibilmente dei programmi già testati da voi o da vostre conoscenze. Questa insomma l'email che ci è arrivata, oltre insomma altre cose. Questo è il succo dell'email di Roberto, e noi ovviamente rispondiamo, e anche perché si tratta probabilmente di casi di persone non, cioè le persone comuni, ovvero le persone a cui cercheremmo tendenzialmente, anche se a volte cadiamo nei tecnicismi, di rivolgerci noi con una trasmissione radio. Effettivamente è un problema molto spesso nel campo del free software trovare dei programmi adatti alle esigenze delle persone comuni. Ci sono stati negli ultimi anni dei notevoli passi avanti, soprattutto nel campo della grafica e soprattutto nel campo ancora di più nel campo diciamo così, dei prodotti da ufficio più comuni come i word processor, cioè i fogli di videoscrittura, i fogli elettronici e i database, piccoli o grandi che siano, per gli usi che ci sono da fare. Effettivamente poi restano ampi buchi che il software open source e free software non hanno ancora coperto. In particolare, partendo dall'email di Roberto, che partiamo proprio dal primo dei punti, un programma di fotografia digitale. Sicuramente in questo campo non manca insomma un prodotto di ottimo livello come quello di GIMP, che permette di fare del fotoritocco. E proprio qua davanti a noi abbiamo una foto che Marco ha creato, in cui c'è una sua amica e una capra che, esatto, sono state fuse insieme. La foto è molto carina. E come hai fatto a farlo, Marco? Beh, ho utilizzato questo programma, appunto GIMP, che si può trovare al sito www.gimp.org, GIMP.org, e che permette di lavorare in una maniera professionale su delle immagini, andando a lavorare su più livelli contemporaneamente, per cui su un livello trasparente vado a mettere dei dettagli che poi vado a sovrapporre al livello precedente, insomma, poi lavorando appunto in maniera professionale. Su questi livelli posso applicare dei filtri, posso modificare le immagini, cambiare il tipo di colore di base, distorcere delle immagini, e questo mi ha permesso appunto di... Questo era uno scherzo di laurea, e quindi si è trattato di trasformare questa mia amica con una faccia più da pecora, e è venuto abbastanza bene. Dopo continua Roberto nella sua email chiedendo programmi per l'archiviazione digitale e un programma che trasformi le pagine inserite in dati che si possono elaborare in un programma di scrittura, ovvero come per esempio quando qualcuno con uno scanner prende un articolo di giornale per archiviarselo sul suo computer e vorrebbe magari modificarlo aggiungendo qualcosa o cose di questo tipo, insomma quello che potrebbero voler fare gli studenti per esempio quando vogliono far finta che una ricerca sia loro e non una semplice fotocopia di un libro. Quindi prendono la pagina del libro, la inseriscono, la riformattano utilizzando caratteri diversi, dicono che è loro. In questo campo, Alessandro, come è messo il software open source? Allora, prima ancora direi, questa tecnica si chiama OCR, giusto per far capire anche che significa, che cosa significa. Cosa significa OCR, Alessandro? Si chiama Optical Character Recognition. Ricognizione ottica dei caratteri. Esatto, sì. Il riconoscimento, probabilmente. Ed è, no? Vabbè, è un problema abbastanza vecchio, cioè è un problema classico dell'informatica, quello in pratica di insegnare a una macchina a riconoscere dei simboli che per noi hanno significato da dei punti, sostanzialmente, che sono le immagini. È un problema vecchio perché è già studiato già all'inizio degli anni 60, Viene nel, diciamo in, in letteratura viene denominato il problema della B8, senza, perché la B e l'8 sono abbastanza simili, la B maiuscola, per cui veniva chiamato così. Comunque è un problema vecchio, ci sono adesso delle ottime soluzioni, diciamo che gli algoritmi di analisi sono evoluti parecchio, soprattutto dal punto di vista teorico, e anche la qualità degli scanner permette oggi di fare dell'OCR anche diciamo dal PC di casa. Esistono diversi prodotti su Windows che fanno questa cosa, alcuni bene, alcuni meno bene. Noi parliamo di quelli open. Allora, a livello open esistono principalmente dei programmi a linea di comando, ovvero a differenza di quelli Stai parlando di Linux o di Windows adesso? Prima parliamo di open, nel senso programmi che sono open source sotto licenza GPL. Sono entrambi, per esempio uno dei più gettonati, personalmente l'ho anche provato, funziona abbastanza bene, si chiama GOCR, è un programma piccolissimo di 800k, è un programma che esiste sotto Windows e sotto Linux. Sotto Linux è una versione leggermente più aggiornata, io ho utilizzato anche quella per Windows e funziona abbastanza bene. È un eseguibile in cui si inserisce, sì, gli si dà il comando, il nome del file immagine e il nome del file txt di destinazione, dove lui andrà a mettere i caratteri che ha riconosciuto. Diciamo che non è molto comodo da usare se uno non è pratico dei programmi a linea di comando. Purtroppo per Windows un programma open source con interfaccia grafica non c'è. Le uniche cose open che ci sono su Windows sono queste, appunto. Uno è GOCR, l'altro è OCRAD, di cui esiste pure una versione per Windows. Mentre invece per Linux esistono, a parte altri software come Clara o OCR, che è un altro programma di riconoscimento abbastanza evoluto, esiste un'interfaccia grafica per KDE che si chiama Koka, scritto con due K, K-O-K-A, Koka, che è invece un'applicazione più tradizionale, dove è possibile, a parte che è un programma di scansione in generale, quindi è un'interfaccia di scansione normale dove si può selezionare l'immagine, la qualità, i colori, eccetera eccetera, e come generalmente viene fatto con i driver degli scanner di Windows, include al suo interno anche l'interfaccia per i programmi a linea di comando come GOCR, appunto, che è nell'esempio riportato nelle pagine di Koka, e praticamente visualizza da un lato l'immagine in versione, cioè il testo in versione immagine, e dall'altro quello che il programma OCR ha riconosciuto, che è una funzione piuttosto utile perché permette un raffronto parallelo dell'originale con il testo riconosciuto e velocizza di parecchio le correzioni. Poi vabbè, questi software utilizzano dei vocabolari per riconoscere meglio le parole, esistono anche i vocabolari italiani, quindi correggono le parole utilizzando appunto il contenuto di questi vocabolari, quindi hanno, diciamo, tutte le funzioni degli OCR commerciali. Purtroppo peccano per le interfacce, a parte Koka, che sfrutta appunto l'interfaccia di KDE. E quindi questo, infatti ci siamo anche ricordati prima di dire che GIMP funziona anche sotto Windows, è importante rimarcarlo perché non tutti ovviamente potrebbero essere interessati a Linux, ma sicuramente possono essere interessati a programmi di alto livello come GIMP, pur non abbandonando il loro sistema operativo a cui sono abituati. Oltre a questo, Roberto ci chiedeva un programma per scrivere con la voce e uno per le traduzioni, e mi sembra che a livello free, sotto questo punto di vista, non siamo messi benissimo. No, direi che qui i problemi sono notevoli. Allora, per quanto riguarda il riconoscimento vocale, anche i prodotti commerciali non sono ancora perfettamente funzionanti. Esistono dei prodotti che funzionano abbastanza bene, e soprattutto negli ultimi 2-3 anni sono uscite delle cose fatte piuttosto bene. Purtroppo per questo genere di software è richiesta una notevole ricerca proprio dal punto di vista della teoria, dell'analisi, e che generalmente le comunità open non riescono a fornire. E in più entrambi i software hanno il problema della lingua, perché anche il software di riconoscimento vocale funziona bene se è testato sul modo di pronunciare le parole specifici di ogni lingua. E quindi questo rende difficile la creazione di un software open che abbia anche delle conoscenze specifiche per la lingua italiana piuttosto che per le lingue minori che non siano l'inglese. E questo è un problema. La traduzione pure è peggio, nel senso che anche i prodotti commerciali in questo senso. Fondamentalmente non esistono prodotti commerciali efficienti da questo punto di vista. Tra i prodotti migliori, tra virgolette, ci possono essere i traduttori online, quelli come quelli di Google, Altavista. Google, Altavista, eccetera, che funzionano abbastanza bene, però sono ben lontani dalla traduzione reale. Su quella gag dei traduttori, persino gli Illustratori Tese facevano una trasmissione in cui facevano la traduzione delle canzoni, con dei risultati piuttosto maccheronici, insomma. E chiunque può rendersene conto andando su Altavista, cliccando sulla parte delle traduzioni, provare a tradurre qualcosa dall'italiano all'inglese, poi dall'inglese all'italiano, e vedere che cosa ne esce che fuori. Cosa ne esce, oppure vabbè, se uno ha un po' di conoscenza in inglese sa che il risultato non dovrebbe essere quello, o viceversa. Da quel fronte direi che siamo ancora lontani anche dal punto di vista commerciale alla realizzazione di un software veramente efficace. Per adesso mi sembra che sia tutto per la puntata di oggi. Non so se vogliamo ascoltare un'altra canzone o se invece ci salutiamo qui. Ci salutiamo qui assolutamente, e quindi l'appuntamento è per la settimana prossima. Ciao, sempre a tutti, attorno alle 12:30 mettiamo magari la sigla, queste con cose la qua, dai. Settima puntata di Cialtroni nello spazio, mentre oggi concludiamo la sesta. spazio.circolab.net oppure radio@circolab.net per scriverci, mail, per scriverci, oppure radio.circolab.net, un altro sito internet, ne abbiamo due, oppure www.circolab.net/progetti/cialtroni_nello_spazio, oppure un sacco di altre cose per trovarci. È tutto per Cialtroni nello spazio, l'appuntamento per la settimana prossima. Ciao ciao ciao.